Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Oggi puntata d'eccezione per il nostro programma. Tra pochissimo vi anticipiamo l'intervista col ministro dell'istruzione Francesco Profumo. Occorre concentrarsi sullo squilibrio tra cervelli in entrata e in uscita dall'Italia, ha dichiarato ai nostri microfoni. E finalmente parliamo anche un po' di noi, di giornalisti che emigrano all'estero. Per farlo andremo fino in Australia. Forse non ho pensato che sarei partita in maniera definitiva. Volevo fortemente fare la giornalista e sapevo che in Italia avrei dovuto fare la coda. Marina Freri, 25 anni, è una giornalista italiana per la radiotelevisione pubblica australiana a Sydney. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Il numero di italiani giunti in Australia con un permesso di residenza temporaneo è cresciuto dell'86% tra il 2006 e il 2011. L'incremento è stato pari al 119% per il Working Holiday Program rivolto agli under 30, la maggioranza a laurea o master. L'indagine è stata realizzata da Marina Freri, che ascolteremo tra poco. Molti lasciano un paese dove la disoccupazione giovanile ha raggiunto quota 31,1%. E ora l'intervista esclusiva di Giovani Talenti al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Francesco Profumo. Per iniziare le abbiamo chiesto se esista a suo parere un problema di fuga dei cervelli. Non sono così affezionato al brain drain, ma sono più preoccupato dallo squilibrio tra le persone che vanno e le persone che rientrano. Io sono estremamente favorevole al fatto che i nostri ricercatori migliori abbiano l'opportunità di fare un'esperienza all'estero, e questo è un segnale estremamente positivo per la qualità della formazione del nostro paese e della ricerca. Certamente il rientro è difficile, ed il rientro è difficile fondamentalmente per tre elementi. Il primo è quello dei salari. Bisogna avere dei livelli salariali che siano comparabili con quelli degli altri paesi per le stesse posizioni. Il secondo, un eccesso di parcellizzazione dei nostri laboratori di ricerca. Il terzo, le nostre comunità sono comunità molte volte di buona o di ottima qualità, ma che non hanno una sufficiente rete di lavoro con comunità equivalenti di altri paesi. Pochi giorni fa ci ha scritto un ascoltatore Giovani Talenti, che è un insegnante in un liceo scientifico in Puglia, e ci scrive: quanta tristezza ho nel vedere molti miei studenti bravissimi, impegnati e motivati, pensando che un giorno arricchiranno un altro paese. Allora mi chiedo cosa ci stiamo a fare noi docenti in Italia, che spesso lavoriamo con passione nella speranza di ridare un futuro dignitoso al nostro paese. A questo nostro collega vorrei rispondere in un modo non così rituale. Il mondo è un mondo ampio, un mondo aperto, un mondo in cui le persone nella loro vita cambieranno lavoro molte volte e probabilmente anche paese. Noi dobbiamo creare certamente una classe dirigente del paese, una classe di ricercatori di grande qualità. Poi con una certa generosità dobbiamo metterla a disposizione della comunità nel suo complesso. Ma dobbiamo creare le condizioni perché questi nostri ricercatori, questi nostri giovani o altri possano venire. Questo mix di sangue è veramente quello che crea le condizioni migliori per la crescita di un paese. Non pensa che l'obbligo di mobilità dei ricercatori, un po' come si fa in Francia, tra atenei, potrebbe essere anche un buon antidoto alle baronie, no? Evitando anche un po' il malcostume italiano delle cordate interne all'università? Io sono molto favorevole alla mobilità. La mia esperienza personale è in quella direzione e sono stato arricchito. L'Italia investe solo il 4,6% del PIL in istruzione, contro una media OCSE del 5,7% ed europea del 5,2%. Cosa intende fare il governo per portare gli investimenti a ridosso di medie più consone? Io credo che abbiamo due problemi separati. Uno è certamente quello delle risorse, il secondo è quello della gestione del sistema. Sarei per lavorare prioritariamente sulla gestione, per creare un paese più moderno, un paese più capace di essere attrezzato da questo punto di vista. Ministro, noi viviamo sul filo di un paradosso. Siamo un paese che ha una percentuale di laureati inferiore di almeno 10 punti rispetto alla media europea, dove però i laureati hanno un tasso di occupazione pari al 76,6% contro una media europea di oltre l'80%. Come cambiare la cultura paese incoraggiando il tessuto produttivo a investire in capitale umano? Il nostro è un paese fondamentalmente conservatore da questo punto di vista, nel senso che la stessa struttura del nostro sistema socio-economico, con questa percentuale così elevata, intorno al 90% di aziende medio-piccole, crea una situazione di protezione del piccolo rispetto all'inserimento di professionalità elevate. Questo certamente è una limitazione. Una policy più attenta rispetto a alla distribuzione degli studenti tra formazione tipo liceale e formazione di tipo tecnica, credo che possa essere una tu da giocare. Molti ricercatori e professori che hanno partecipato per raccontare la loro storia all'estero hanno un po' accusato il sistema dilaganti di nepotismo e cooptazione all'interno delle nostre università, motivando la fuga. Il caso più eclatante di questi giorni è il caso anche della famiglia Fratti all'Università della Sapienza. Non è il caso, secondo lei, di dare segnali esemplari di lotta a queste pratiche di nepotismo per incoraggiare il corpo accademico, ora all'estero, anche a un ritorno? Io credo una cosa, che se noi diventeremo un paese più europeo, un paese più capace a confrontarci nella quotidianità con gli altri, con i diversi, anche queste situazioni di malfunzionamento del paese probabilmente diminuiranno o si azzereranno completamente. Io credo che il paese ha bisogno di aprirsi, ha bisogno di confrontarsi con gli altri, ha bisogno di accettare le regole degli altri. Credo che questa sia la strada. E quindi come intendete rendere l'Italia un posto attrattivo per chi vuole rientrare? La ricetta credo che sia quella di avere un ruolo più attivo nella ricerca europea in termini di partecipazione, in termini di acquisizione di risorse, in termini di collaborazioni con gli altri paesi. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a distanza di pochissime settimane in Australia, perché a noi piacciono i posti giovani che danno opportunità a chi dimostra di meritarsele per davvero. Nome: Marina. Cognome: Preri. Età: 25. Città di origine: Lodi. Studi: laurea in lettere e master in giornalismo. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2009. Per andare dove? In Australia. Perché? Per fare un'esperienza. Quale lavoro svolgi attualmente? Giornalista. Dove? A Sydney, presso l'emittente pubblico SBS. Tornerai? Tornerei se ci fosse un'occasione. SBS Radio, broadcasting in Italian. Radio SBS, programma in lingua italiana. Buongiorno e buona domenica da Marina Freire. Eccoti Marina, ti sentiamo al microfono di SBS, Radio Pubblica Australiana, e permettimi di aggiungere che fa davvero piacere dopo oltre 2 anni parlare di giovani giornalisti radiofonici che lavorano all'estero. Giochiamo in casa allora. La mia più grande rabbia, scrivi, è stato più facile scrivere in inglese, mandare in onda interviste in inglese che lavorare da giornalista nel mio paese, nella mia lingua. Ci hai scritto a giovanitalenti@radio24.it. E va bene che il mondo ormai si è globalizzato, però non è assurdo che questo paese, prima vittima di una stampa estremamente provinciale, ripiegata sul proprio ombelico, dimentichi all'estero i suoi giovani giornalisti dall'apertura più internazionale? Forse non è assurdo, è un po' sconcertante. Diciamo che non penso di essere più brava di quelli che rimangono, però mi spaventa il fatto di dover rimanere in un limbo se un domani dovessi decidere di tornare. Facciamo un passo indietro, iniziamo dalla tua storia di studi. Nel 2005 ti iscrivi all'Università Cattolica di Milano, Lettere Moderne. Perché questa scelta? Ho sempre amato scrivere, ho sempre amato la letteratura e quindi cercavo di avvicinarmi il più possibile all'ambito giornalistico. L'assurdo comincia già dall'università. Giustamente noti come sia un'anomalia molto italiana la non coincidenza tra formazione universitaria e formazione professionale in ambito giornalistico. Ci spieghi cosa intendi dire? Intendo dire che in Australia per diventare giornalisti occorre frequentare un corso di laurea ordinario, non in scuole di specializzazione private o controllate dal governo. Nel 2007 l'esperienza che cambierà la tua vita: vinci una borsa di studio, un mese e mezzo a Sydney, fai la valigia e parti. Quale mondo scopri agli antipodi? Un mondo di spazi. L'Australia è molto vasta, ma scopro anche degli spazi per donne, per giovani che non pensavo ci fossero. Vedo giovani in posizioni di responsabilità, donne manager, donne ministre, e decido che forse mi piacerebbe fare questi spazi miei. Nel 2009 ti laurei, 110 lode. Soddisfatta o no della preparazione universitaria? Abbastanza soddisfatta, ma preferirei che ci fossero criteri di selezione più severi all'ingresso. Le università tendono ad accettare sempre più studenti e di fatto abbassano il livello della loro offerta formativa. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua. Con la laurea in tasca parti, come canta Caparezza, per l'Australia. In un articolo autobiografico riassumi con ironia: fossi rimasta in Italia, avrei forse potuto ambire a fare la giornalista nella redazione della Pimpa? Domanda fatidica, non hai mai pensato neppure un attimo di restare? Forse non ho pensato che sarei partita in maniera definitiva, ho pensato che sarei partita per fare un'esperienza. Volevo fortemente fare la giornalista e sapevo che in Italia avrei dovuto fare la coda. Fare la coda, in Italia si fa la coda per tutto, anche se si è bravi. Non mi stancherò mai di ripeterlo per smentire alcuni luoghi comuni. comuni. A parte i ricchi figli di papà, la maggioranza di voi se la suda tutta l'esperienza all'estero. Vogliamo raccontare cosa hai fatto per un anno, sporcandoti le mani in tutti i sensi? Avevo avviato una brillantissima carriera nella ristorazione, partendo come operaia in un pastificio, poi diventando cameriera, e alla fine il culmine è stato aiuto cuoco in una tavola calda. Ti iscrivi a un master di giornalismo in Australia che ti aprirà le porte della professione. Qual è, a tuo parere, la differenza fondamentale tra la formazione giornalistica anglosassone e quella italiana? La formazione giornalistica in Australia è a tutto tondo, cioè si formano reporter completamente indipendenti. Si dà forte importanza alla cronaca e ai fatti. Su internet una giovane pubblicista ha pubblicato tempo fa una lettera molto amara: non provo neppure a fare la scuola di giornalismo in Italia, l'iscrizione all'albo io non me la compro. Allora, ha senso che per diventare giornalista professionista e poter vincere l'unica speranza di avere una vera carriera da reporter si debba fare una scuola post laurea da 8-10 mila euro di costo? Non ha senso nella propria nazione, diciamo, dove si è cittadini, ma soprattutto non ha senso che siano corsi post laurea, dovrebbero essere corsi di laurea ordinari che immediatamente portino al riconoscimento della professione. Nel frattempo arrivano anche le prime assunzioni. Rispetto all'asfittico mercato del lavoro italiano, dove un contratto da professionista appare un miraggio, quanto è secondo te più dinamico quello australiano? Il mercato del lavoro australiano è sicuramente dinamico, ci sono un sacco di opportunità. È anche vero che c'è un muro molto alto da scavalcare, che è quello dei visti e dei permessi di lavoro. Tu lavori per il sito online Delimiter, per IT Wire, dove ti occupi soprattutto di tecnologia informatica, fino al concorso pubblico che ti porta a un contratto presso l'emittente nazionale SBS. Straniera, italiana, giovanissima, hai vinto un concorso per la radiotelevisione pubblica australiana. In Italia non oso immaginare. Marina, serve la raccomandazione per ottenere un posto da giornalista in Australia? Serve avere papà o mamma giornalisti? Decisamente no, essendo arrivata qua completamente senza reti di conoscenza di nessun tipo, serve la preparazione e, se posso permettermi, non serve neanche l'avvenenza. Di cosa ti occupi ora a SBS esattamente? Vado in onda due volte alla settimana e in uno dei due programmi mi occupo di nuova emigrazione italiana in Australia. Vogliamo raccontare il boom che c'è stato di giovani italiani in Australia? Dal 2006 al 2011 il numero di italiani in arrivo in Australia su visti che consentono di lavorare da 1 a 4 anni è aumentato dell'86%. E nel 2011 ne sono entrati 9.350 circa. Se a questi poi aggiungiamo coloro che sono in possesso della residenza permanente, in totale nel 2011 sono arrivati 10.000 italiani. Hai mai provato a testare il tuo curriculum presso le testate italiane? Se sì, con quali feedbacks? L'ho fatto per dar ragione ai miei, per far piacere ai miei. Purtroppo non ho ricevuto nessun feedback. E vabbè. C'è un problema, Marina, di selezione e mercato nel giornalismo italiano. Quando una testata offre un posto di lavoro pubblicamente da noi fa notizia. L'esatto contrario rispetto alla Gran Bretagna o all'Australia. E in più proliferano cognomi sospetti. Non ci sono anche un po' troppi figli di un forte odore di raccomandazione nel corpo giornalistico italiano? E gli outsider bravi e meritevoli, dove li mettiamo? Sarebbe bello chiederlo a chi può. Non so se ci siano cognomi sospetti, su quello non mi sbilancio, ma di certo una cosa che mi fa specie è che pochissime redazioni italiane abbiano una sezione lavora con noi, cosa che invece è la norma in Australia. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Vedo l'Italia che fa fatica sicuramente, vedo un'Italia che sta cercando di riprendersi moralmente ed economicamente. Quello che non va è l'immobilismo del mercato del lavoro, cercherei di renderlo un paese più meritocratico. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Marina Freri, 25enne giornalista per la radiotelevisione pubblica australiana SBS. Marina è giunta agli antipodi dopo una laurea in lettere moderne. Per lei si è trattato in realtà di un ritorno in un paese dove aveva già soggiornato per un periodo di studi. Il primo anno Marina lo trascorre lavorando nei ristoranti, poi il salto verso la carriera da giornalista. Prima alcune collaborazioni, poi l'assunzione per concorso. Ora collabora sia alla redazione italiana che a quella inglese. Da Sydney Marina osserva un paese, il suo, stanco, dove nepotismo e sistemi clientelari impediscono ai migliori di trovare una collocazione dignitosa. Ci raggiunge ora in linea Tommaso Pedicini, 40 anni, caporedattore di Radio Colonia, trasmissione del servizio pubblico tedesco Westdeutscher Rundfunk. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Radio Colonia. Le notizie del giorno. Sono questi. Da Sydney a Colonia un bel salto geografico, anche radiofonico, come avete appena ascoltato, per due storie in qualche modo parallele. Tommaso, che impressione ti ha fatto ascoltare il racconto di Marina? Devo dire dire che è una storia, quella di Marina, molto comune ai miei colleghi, alle persone che anche scrivono spesso alla nostra redazione in cerca di una collaborazione. Molti giovani che vengono dall'Italia con un'ottima preparazione, con una scuola di giornalismo alle spalle, con una formazione da giornalisti, con la pratica, e che in Italia non riescono a trovare una collocazione. Rapidamente la tua storia: nasci a Merano, ti laurei in filosofia a Milano, dove lavori come assistente universitario, poi ti trasferisci a Friburgo, in Germania, per un dottorato che non concluderai. In compenso fai una moltitudine di lavori fino ad approdare alla redazione italiana della radio bavarese. A quel punto inizia una serie di collaborazioni giornalistiche. Allora, è più facile, Tommaso, sfondare in Germania e dalla Germania come reporter rispetto all'Italia? Per la mia esperienza assolutamente sì, e io devo dire che non sono partito dall'Italia come giornalista, lo sono diventato, come raccontavi tu, un po' per caso, un po' perché si è data la situazione. Per quella che è la mia esperienza, avendo poi lavorato sia per testate tedesche che testate italiane, sicuramente c'è più la possibilità che viene offerta, ci sono più chance per una persona che si presenta a una testata importante anche tedesca, che rispetto all'Italia, dove ci sono una serie di percorsi, se vogliamo anche c'è tutto il discorso delle raccomandazioni che abbiamo sottolineato prima. Quindi sicuramente in Germania ci sono forse più possibilità. Nel 2007 vieni assunto alla Westdeutscher Rundfunk, con cui già collaboravi, e 2 anni fa divieni caporedattore della trasmissione italiana Radio Colonia. Allora, cos'è Radio Colonia? Radio Colonia, che ha compiuto poi 50 anni proprio pochi mesi fa, è un programma che nasce come informazione per gli italiani che vivono in Germania, per i lavoratori ospiti, Gastarbeiter, nei primi anni 60, e poi col tempo, come si è trasformata la comunità italiana in Germania, si è trasformata anche Radio Colonia. Oggi siamo una trasmissione quotidiana, dal lunedì al venerdì trasmettiamo un'ora, un magazine moderno con molta informazione politica, attualità, ma anche rubriche. Pago la quota annuale all'ordine dei giornalisti come puro segno identitario o di dabbenaggine, ci scrivi. Tommaso, ha senso secondo te un ordine dei giornalisti così come è strutturato, così come hanno senso gli ordini italiani tout court nel terzo millennio? Penso che l'ordine abbia un senso nel momento in cui valuta una preparazione dei giornalisti, cioè penso che un esame di Stato sia importante per i giornalisti per avere, come dire, una preparazione minima. Come è al momento sia il discorso dell'esame che l'ordine che la formazione giornalistica in Italia, ho l'impressione che tutto sia molto bloccato, e quindi mi sembra che, per rispondere alla tua domanda, il sistema così com'è al momento non funziona, vada assolutamente riformato e ripensato. Grazie a Tommaso Pedicini, e domanda di rito a Marina Freri: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Consiglierei di imparare molto bene, già prima della partenza, la lingua del paese in cui intende trasferirsi, e consiglierei di non vedere nessun lavoro come denigrante, quindi tanta umiltà e tanta pazienza. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Torniamo a Barcellona, lo facciamo per parlare di un altro sito nato dall'iniziativa dei nostri connazionali, Fabio Pitrola, tra i fondatori di Spaghetti BCN. Spaghetti BCN nasce nel giugno del 2007, abbiamo deciso di aprire un blog, scrivere delle mini guide per gli italiani che arrivavano dopo di noi, che dovevano fare i documenti e tutto. Da lì abbiamo cominciato a scrivere qualche articolo al giorno, e dopo un po' abbiamo subito, gli italiani hanno cominciato a seguirci, abbiamo avuto un grande riscontro di visite sin da subito. Quanti collaboratori avete? Quasi 40 persone. Ogni giorno pubblichiamo almeno 2 piccoli articoli. Passiamo alla questione dei giovani professionisti che scelgono Barcellona per venire a vivere e lavorare. È ancora una città di moda per i nostri giovani expat? Sì, è ancora una città di moda. L'italiano vede Barcellona come una città solare, però Barcellona è anche questa, anche se ora con la crisi è molto più difficile trovare lavoro. Ma ci sono settori qualificati dove i nostri giovani continuano a trovare lavoro? Nel settore dell'informatica si lavora bene, gli ingegneri lavorano bene o male sempre, però per esempio mentre prima lavoravano molto bene gli architetti, adesso la costruzione non va più. Comunque vanno bene chi ha idee innovative. Nonostante la crisi, nonostante la difficoltà a trovare lavoro, perché continuano a scappare verso Barcellona i nostri giovani? Ti posso